agli ascoltatori l'ipotesi di accusa di corruzione internazionale, per questo in carcere il presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi, come abbiamo annunciato poco fa, decapitata dai suoi vertici, così la società pubblica di difesa e spazio, da un'ordinanza del GIP di Busto Arsizio e da un'inchiesta che riguarda presunte tangenti che sarebbero state pagate per chiudere la vendita di 12 elicotteri al governo indiano. Secondo l'accusa, per quella vendita, il cui contratto fu sottoscritto in Inghilterra l'8 febbraio del 2010, fu pagata una tangente di 51 milioni di euro. La fornitura degli elicotteri invece fu pagata 556 milioni di euro. Ai domiciliari poi l'amministratore delegato di Augusta Westland, Bruno Spagnolini. Altri due ordini di cattura sono stati firmati per i mediatori che si sarebbero occupati di veicolare le mazzette e avrebbero consentito all'azienda di creare fondi neri proprio per poter pagare chi aveva agevolato l'operazione. L'autorità di polizia elvetica sta eseguendo due arresti a Lugano. Si tratta appunto dei due intermediari dell'affare Finmeccanica con il governo indiano, Guido Ashk e il suo socio Carlo Gerosa. Mentre gli indagati venivano prelevati nelle loro abitazioni, sono scattate decine di perquisizioni nelle case e negli uffici di alcuni manager del colosso di difesa. L'inchiesta avviata dalla Procura di Napoli era stata trasferita a Busto Arsizio per ordine della Corte di Cassazione, cui si era rivolto proprio Orsi, sollevando una questione di competenza. Sono più di due anni che si parla di un'indagine che riguarda Finmeccanica e il suo presunto utilizzo di fondi neri per agevolare alcune commesse o riciclare denaro. Orsi, dopo aver guidato a lungo la varesina Augusta Westland, è amministratore delegato di Finmeccanica dal maggio scorso e presidente da dicembre scorso, dopo le dimissioni di Pier Francesco Guardaglini. Per ora è tutto.